Italians. Italien. Italianas. Italienische. Italianisch. Italvi. Italiago. Con la valigia. Brasil. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Eh sì, buongiorno, buon pomeriggio. E anche buonanotte alle ragazze dall'altra parte del globo. Che figata, ragazze. Quando si pensa, no? Sì. Mollo tutto e vado a vivere in Brasile. C'è un gruppo fantastico di Facebook. Sì. Che si chiama Italiani che sopravvivono in Brasile. Beh, ma detta così non sembra così bello. Sopravvivere, ironico. Esatto. Sì, esatto. Dai. Che sopravvivono, come per dire, qua c'è la festa, però sicuramente non è una vita facilissima. Brasile, che è una meta che mi ha sempre ovviamente molto ispirato. Ma penso va. Che sia un po' il sogno di tutti, no? Andare a vivere sì. in Brasile, no? Ma non lo so, io sono a pensare agli animali. Chi non ha voglia di far niente, forse, che poi così non è, perché no, non credo che sia per quello, più che altro per gli animali. Io ho sempre avuto paura di questi animali, perché se vai in Amazzonia ci sono i piranha, metti i piedi in acqua ci sono i piranha, poi arrivano in questi boa constrictor di 6-7 metri. Ah beh, non ci avevo mai pensato io. No, non ci hai mai pensato. No, io mi immaginavo essere un bel fisico scolpito, sì, che ballava sì, la sì. capoeira. No, bello, bello. Bermi una caipirinha. Così andiamo, caliente, caliente. Spiagge. Andiamo, forza, via. Andiamo in Brasile. Oggi visiteremo una città particolare, si chiama San Paolo. Ci troviamo nel sud. Sì, ci troviamo nel Merkel sud. Qua. Basta questa Merkel. No. Abbiamo già incontrata settimana scorsa la Merkel. Me l'hai già messa lì. Qua, lo so perché si parla molto di lei queste settimane, ma un po' sempre, vabbè. A San Paolo si lavora tantissimo, altro che dolce far niente. A San Paolo si corre. È finita ora che... È finita la pacchia. BRICS. Sì, BRICS, paesi emergenti di cui fa parte il Brasile, si lavora tanto. Lo chiediamo alla nostra ospite che si chiama Francesca. Ci ha incontattato lei sulla nostra mail, Italiane con la valigia, e ci ha chiesto insomma di raccontare la sua esperienza in Brasile. Noi siamo volate da lei. Non abbiamo detto la cosa più importante. Cosa? È che Maddalena non c'è. No, Maddalena è andata per noi apposta in Brasile a fare un sopralluogo. Un check-in. E verificare appunto che tutto quello che sarebbe stato detto in puntata corrispondesse a realtà. Ecco. Esatto. Verificherà tutto per noi. Andiamo a sentire Francesca, andiamo a San Paolo del Brasile. Ciao Francesca. Ciao. Ciao a tutti. Bentrovata. Che cosa ci fa in Brasile? Soprattutto da dove vieni? Qual è un po' il tuo percorso? Io vengo da un piccolo paesino che si chiama Camogli, in provincia di Genova. Il mio percorso all'estero è incominciato, come tantissime persone, tramite l'Erasmus nel 2005-2006, non mi ricordo, a Madrid. Bello. L'appartamento Nico. Spagnolo, però a Madrid. Sì, stupenda, mi è rimasta nel cuore. Sento un magone. Sì, sì, esatto. Quindi niente, là ho conosciuto il mio attuale marito, franco brasiliano, che faceva una business school, che cioè ogni anno girava in un paese diverso. Quell'anno gli era toccato Madrid, gli era toccata la Spagna. Ci siamo conosciuti, poi io nel frattempo sono ritornata in Italia, mi sono laureata, ho cominciato un master e lui a quel punto lì è andato in Francia. Poi ci siamo un po' inseguiti, perché poi ho finito il mio master, io mi sono proprio formata in insegnamento di italiano per stranieri, quindi ho fatto un master all'Università per Stranieri di Siena, eccetera, e dopodiché sono partita per la Francia, ho lavorato all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Fantastico. E sono rimasta là 4-5 anni. In quel periodo lui faceva un po' avanti e indietro, quindi lui si era già laureato, lavorava un po' tra il Brasile e la Francia, e io altrettanto, come voi saprete, la Francia, il grande privilegio di avere 2000 vacanze. Sì, perché dovete sapere che in Francia ogni mese e mezzo ci sono 2 settimane di vacanza. Favoloso. Sì, no, mi girano un po' le scatole perché lo vivo con mia figlia come studente, non è mai successo a me, ecco. La vivevo come giovane lavoratrice, quindi è stato fantastico, perché poi ti avvisano con un preavviso molto lungo. Io seguivo il calendario scolastico. Ah, sì, sì. Riuscivo a programmarmi tutti i voli possibili, spendendo il meno possibile per il Brasile, quindi io tutte le vacanze me le facevo giù. Quindi vi davate spesso, perché comunque ci sono 5, credo 5 stop didattici. Scusa, mi sto facendo lo schemino qui, carta e penna, perché mi sono un attimo persa, no? Perché, allora, Italia per il master, dopodiché hai raggiunto il tuo amore a Parigi e lui nel frattempo ha trovato lavoro in Brasile. Aveva aperto un'impresa in Brasile, avendo un'impresa sua se la gestiva lui, e quindi riuscivamo dal mio punto di vista, incastrarci bene. Fighissimo. Perfetto. Quindi cioè, avete vissuto questa storia d'amore pazzesca, grandi distanze di mezzo, aerei, lacrime e ti saluto, baci di addio, perché poi chiaramente qui si facevano tutti gli scali possibili per pagare meno, quindi ci a viaggiare 24 ore. E poi la vita invece è cambiata, vi siete sposati, siete andati a vivere in Brasile, e raccontaci com'è il Brasile. Allora, il tuo impatto. L'impatto culturale, devo dire la verità, non tantissimo, perché San Paolo dicono che è la città italiana più grande del mondo, ci sono una serie di... La città italiana? Sì, perché tantissimi sono di origine italiana, quindi hanno il diritto alla nazionalità, al passaporto italiano, quindi di fatto sono tutti italiani, magari neanche la metà di loro parla italiano, però sono tutti italiani, diciamo. Sì, anche qua sono tutti italiani quando vogliono, comunque, qui in sì, Francia. Negli Stati Uniti o in Italia o in Europa senza visto, allora tirano fuori il passaporto italiano. Brava, brava. Io dico sempre che noi italiani amiamo l'amore, quindi siamo un po' dappertutto, ci siamo riprodotti ovunque. Esatto. E anche se in qualche modo abbiamo perso la lingua andando, diciamo, emigrando all'estero eccetera, tante tradizioni che probabilmente paradossalmente sono andate perse qua in Italia, là sono rimaste. Passare tutta la domenica con queste tavolate. Sì perché sono rimasti all'Italia degli anni 20 probabilmente, non so quando poi sono... Poi tanta migrazione del sud Italia, quindi delle tradizioni ancora più radicate, eccetera. Quindi dal punto di vista culturale no, non un grossissimo spaesamento, devo dire la verità. Come genovese un po' di più, come dicevamo fuori onda, perché là sono chiaramente molto aperte. È una mentalità, sì esatto, molto aperta, accogliente. Che mi spiace dirlo, però noi genovesi siamo un po'... Noi siamo diffidenti storicamente, poi dopo un po' che ci conosciamo diamo anche anima e cuore ai nostri amici, però all'inizio noi siamo sempre un po' così sulle nostre, e invece in Brasile no, per qualsiasi cosa ti aiutano... Sono molto aperti, amichevoli. Sì. Poi pro e contro, né? Sono sempre costantemente aperti, sempre costantemente ti amano e poi il giorno dopo magari spariscono. Vabbè, ma quella è una pratica comune ormai. Ma senti, tu hai un figlio, una figlia? Ho una bimba, sì, di 14 mesi che si chiama Emma. E sì, è nata in Brasile, quindi. Sì. È nata in Brasile, è nata a San Paolo. Diciamo che ha viaggiato tantissimo dalla sua piccola vita. L'abbiamo un po' portata ovunque, dai nonni diverse volte. Viaggi di qua, viaggi di là, insomma, però è una bimba che è molto tranquilla, molto facile, molto divertente, molto compagna. Poi sai che cosa? Quando viaggiamo con i bambini si crea un'empatia particolare, credo. E poi lo vedrai anche da grande, sarà abituata a tutto. Lei è tranquilla, fa tutto, si fa tutti i suoi check-in, il suo percorso di sicurezza, sa già come fare, passa da sola con il metal detector. A 14 mesi, incredibile. Va già in braccio alla stewardess quando sali sul... Si autoperquisisce da sola. Sì. A Parigi l'hanno perquisita e ha anche alzato le braccia. Dai, te prego, stai scherzando. Adesso è successo ieri, guarda, io stavo... No. Comunque quando mia nonna, 85 anni, ha preso l'aereo per la prima volta e il metal detector è suonato e nessuno le ha creduto, è partita, e mia madre il giorno dopo mi ha chiamato dicendo: tua nonna è pazza, aveva un coltello nel reggiseno per andare a tagliare le erbe selvatiche, te lo giuro. No, stai scherzando. Sì, ve lo giuro. Io volevo chiederti, che lavoro fai? A gennaio ho preso un visto permanente, a gennaio 2013, a febbraio già avevo un lavoro e lavoravo all'Istituto Italiano di Cultura e continuo a lavorare alla scuola. Sì, hai continuato la carriera che avevi già iniziato a Parigi. Quindi insomma, per me, nonostante adesso sia un po' più in stop rispetto a prima, perché avendo la bimba ho un pochino più rallentato, diciamo, il mio pro del mio lavoro è che sono formata, quindi diciamo che ho tutta una formazione di italiano per stranieri, qualora cambiassimo paese eccetera, io posso continuare costantemente con il mio lavoro. Paradossalmente il mio lavoro sarebbe un pochino più difficile trovarlo in Italia, ecco. Comunque io volevo chiederti, com'è la vita a San Paolo? Insomma, frenetica, lavorate molto? E come funziona poi anche durante il tempo libero? Essendo mamme, voi mi potrete capire che la mia vita è cambiata da bianco a nero, da nero a bianco, insomma, come poi, però diciamo che c'è un pre-Emma e un dopo Emma a San Paolo. Un pre-Emma è la scoperta della città con il rimorso chiaramente di non averla vissuta abbastanza. È una città molto interessante da quel punto di vista, quindi ha tantissime cose anche underground, tantissime attività culturali particolari, nuove, concerti di qua, di là, teatro sperimentale, insomma è una città da scoprire in continuo. Come avete detto voi, è una città molto molto frenetica, cioè se il Brasile sta diventando una potenza economica fondamentalmente grazie a San Paolo, perché San Paolo è una città, vabbè, sono già 24-30 milioni di abitanti, quindi parliamo di una città che forse negli standard europei sarebbe quasi uno stato, sì. Però è una città dove si lavora moltissimo, la gente lavora, infatti è abbastanza stressata, non ha niente a che vedere con il Brasile cool, il Brasile delle persone tranquille al bordo della spiaggia, ecco, no. Cioè mollo tutto e vado a vivere in Brasile, non vado a San Paolo. No. Più stressante. Al limite vado a Rio, vado al nord se voglio mollare, ecco. Aprire un alberghetto, eccetera. Sì, San Paolo è quello che noi possiamo pensare di una Milano, cioè sono persone molto frenetiche, prima delle 9:30 non smettono di lavorare la sera, e è molto, sì, in questo è molto molto attiva, e spesso ci sono ripercussioni sulle persone, che comunque le vedi stressate, è una megalopoli. E che comunque non saranno neanche abituate, cioè è una roba abbastanza recente. È sempre stata una città molto attiva, lavorativamente parlando, ecco. Tutto questo, in aggiunta alla frenesia del fatto di essere bloccati nel traffico anche 2 ore a causa della quantità di macchine che ci sono, noi abbiamo scelto un quartiere che ci permette di andare, se non a piedi, a massimo 10 minuti in macchina dal lavoro. Siamo strafortunati. Meno male, va, perché... Senti, quindi la vita post-Emma è una vita invece un po' meno mondana. La portiamo ovunque, quindi anche ai ristoranti, l'aperitivo, eccetera. Cosa che in Brasile non sono abituati, quindi vedono la bambina al ristorante la sera, ti guardano e dicono ma siamo abituati a portarla in giro ovunque. Però chiaramente che intorno alle 10:30-11 di sera la nostra serata finisce. Comunque poi torna, Francesca. Senti, io volevo farti la domanda di Maddalena, perché oggi Maddalena non c'è, dopo si arrabbia con noi perché non abbiamo fatto la domanda, e quindi te la faccio. Facci una istantanea di questo tuo momento a San Paolo del Brasile, della tua vita lì. Che cosa allora, vedi? In questo momento vedo tanto divertimento con mia figlia, giochiamo tantissimo, eccetera. Vedo un lavoro che mi piace molto, anche se è molto ridotto attualmente. Tanti amici finalmente che stanno incominciando a essere incinta o avere dei bambini, e non siamo più solo gli unici. Diventa anche più piacevole organizzarsi i weekend. Vedo viaggi, cosa che per un po', nonostante insomma abbiamo sempre continuato a viaggiare, però è stato molto stancante tra allattamenti, cose varie. Adesso vedo viaggi un pochino più tranquilli, siamo andati a New York una settimana, è stato bellissimo, vedo tutto rosa. Finalmente, questa sì che è una bella immagine per chiudere la nostra prima stagione di Italiano. È vero, perché è l'ultima puntata. Sì, sarà. È l'ultima puntata prima di andare in vacanza. Sì. E quindi tu inaugurerai le nostre vacanze. Contenta? Ottimo. Ultima parentesi, però probabilmente non sarà la nostra destinazione finale. Ecco, San Paolo c'è, continua a esserci, cioè abbiamo la famiglia e tutto, ma vedremo. Allora tienici informate, perché magari, che ne so, ci potremo scambiare i ruoli, che ne so, magari poi la prossima volta io sarò a San Paolo, tu sarai qui, chi lo sa. Chi può dirlo? No. Grazie per essere stata con noi, Francesca. Grazie a voi ragazze, buone vacanze allora. Ciao, un bacio anche a te. Grazie anche a te. Ciao ciao. Basta, troppe lingue, troppi paesi, troppi giri, troppi viaggi. Ma sì, viva la vita, sì. Che passa in un soffio, dobbiamo goderla. Come filosofa oggi. Sì, sì, ragazzi, bisogna godersela la vita. E non perderne neanche un secondo. Se potete, prendete un aereo, partite, andate, chiamateci poi per raccontarci la vostra esperienza. Ma brave. Soprattutto per vivere, perché noi quello che vogliamo alla fine sentire dalle ragazze che partecipano alla tua trasmissione è l'esperienza di vita, di vera vita, no? Quando si prende, si parte, si va. Madonna, mi sono commossa, ti giuro. Guarda, se tu fossi candidata alle elezioni ti voterei. Lo so, non sei la prima che me lo dice comunque, però non lo sono. Quindi... vedi la carriera politica, potrebbe essere nuova novità a settembre, chissà. Su, andiamo in vacanza. Andiamo in vacanza, ragazzi del Brasile, un bacio particolare, anche perché mi avete permesso di postare le puntate su Italiani che sopravvivono in Brasile, che è un... sito famosissimo, con una pagina famosissima, e olè! cosa dobbiamo dire? Buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte e buone vacanze. E buone vacanze. Ciao.